tutto il mio dentro che conosci, che tu sai. Vive un momento più difficile che mai. Non è bastato aver tagliato